Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon che continua, al pari della settimana scorsa, a ripercorrere la ricca editoria inerente a Gianni Rodari, comparsa nell'anno del suo centenario dalla nascita. Incontriamo oggi, forse cronologicamente parlando, l'ultimo dei lavori pubblicati, un lavoro curato da Letterio Todaro, ovvero sia Gianni Rodari, incontri e riflessioni a 100 anni dalla nascita. In realtà trattasi di una sorta di atti di un convegno curato dall'Università Catanese qualche mese prima. Ma per saperne di più, la parola allo stesso Todaro che ci spiega il divenire di questo testo dove convergono tanti ricercatori di vaglia sulla vicenda rodariana. Professor Todaro, lei ha curato un saggio intorno alla figura di Gianni Rodari dove sono raccolte le riflessioni di alcuni dei più importanti studiosi di Rodari. Intanto mi fa piacere, come dire, presentare questo volume in questa occasione e devo dire appunto che sono abbastanza soddisfatto e anche orgoglioso un po' di questo volume che come curatore ho portato, come dire, a effetto con il contributo anche di tanti studiosi. E naturalmente l'iniziativa nasce dal fatto che nel 2020 abbiamo celebrato il centenario della nascita di Gianni Rodari, quindi in giro per l'Italia si sono svolte diverse rievocazioni, momenti di studio, di riflessione. Naturalmente anche la situazione del Covid non ha permesso di sviluppare tutte le iniziative che magari si potevano portare a compimento, ma devo dire che io ho avuto la fortuna nella università dove insegno, a Catania, di organizzare un convegno già a gennaio del 2020. In effetti questo volume nasce anche come esito dei lavori di convegno che si sono svolti in quell'occasione. E perché, appunto, perché rimettere al centro la figura di Gianni Rodari? Naturalmente a 100 anni dalla nascita noi possiamo avere la possibilità di guardare a questo straordinario personaggio che è stato, come dire, un protagonista della cultura dell'educazione in Italia nel corso del Novecento, appunto con maggiore serenità, anche con una serenità, come dire, che appartiene alla possibilità di guardare in maniera più distaccata e anche con maggiore riflessione, possibilità di riflessione critica a tutta anche la stagione assai complessa in cui naturalmente Rodari venne a operare come intellettuale importante, diciamo pure della sinistra italiana, nel lungo dopoguerra italiano fino alla sua purtroppo prematura scomparsa che avvenne all'inizio degli anni Ottanta. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Ci vuole il seme, per fare il seme, ci vuole il frutto,

Questo era anche l'ultimo testo rodariano che abbiamo preso in considerazione in queste ultime due puntate conclusive di Fumetti a Sinistra, Un mondo dentro il balloon, trasmissione che vanno a targare un anno di puntate dedicate al pioniere, in particolare ai fumetti in generale. L'appuntamento allora dopo l'estate, per il momento allora ciao a tutti, ricordando che per chi volesse riascoltare la trasmissione l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it o www.ilpioniere.org.